America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. A new chapter in the AT&T T-Mobile story is about to unfold. David Faber with some details on that, David. Thanks Carl. Yeah, very strong. Una notizia di ieri, non una bella notizia per il Natale della AT&T, soprattutto per il Natale degli azionisti della T-Mobile. Vi ho detto che avrei dedicato un po' all'atmosfera di Natale, a come certe situazioni americane venivano vissute in questa settimana che ci porta addirittura ad arrivo al 25 dicembre. Ebbene, la notizia di ieri che ha guastato un po' le feste natalizie è che l'AT&T non è riuscita a disinvestire un numero sufficiente di attività patrimoniali, come chiedeva l'autorità antitrust, per poter procedere con l'acquisto dell'operatore mobile T-Mobile, un acquisto da 39 miliardi di dollari, un acquisto che tutti davano per fatto mesi fa, che sembrava essere una straordinaria operazione per restituire fiducia al mercato e che invece proprio addirittura d'arrivo per questo fine d'anno ha lasciato un po' tutti con l'amaro in bocca. Riflette un po' quella che è la situazione di fondo di questo paese, sia sul piano economico che su quello dell'occupazione, che su quello dei mutui, che su quello finanziario. L'economia continua a essere debole, non si riprende, abbiamo visto dei sussulti, ma non c'è quel tasso di crescita necessario a creare poi un tasso di disoccupazione in diminuzione forte. È vero che siamo calati da oltre il 9% all'8-6%, ma il numero dei disoccupati resta elevatissimo. Disoccupati che a quel punto non possono più pagare l'affitto oppure non possono pagare il mutuo, e quindi la crisi dei mutui continua a non essere risolta. Era scoppiata, ve lo ricordo, nel 2007 con lo scandalo dei subprime. In tutto questo il mercato finanziario è molto agitato, le banche sono restie a prestare, sono riuscite a rafforzare la loro posizione di capitale, ma sono preoccupate da quel che succede in Europa. Hanno venduto una gran parte del loro portafoglio di titoli europei, grosso modo hanno ridotto le partecipazioni di titoli sovrani europei, pensate, del 50%, non danno prestiti molto volentieri, insomma c'è una situazione un po' di rigidità. Ecco, in questo contesto i mercati restano molto incerti, la borsa è afflitta da grande volatilità, l'unico elemento di stabilità è nel basso tasso di interesse, i tassi a lunga più o meno sono rimasti su livelli molto positivi. Ma perché? Beh, questo perché la Federal Reserve ha aperto completamente gli sportelli della sua liquidità. Ecco, di questa situazione complessa che c'è anche qua in America vorrei parlare con Alberto Bisin, professore di economia alla New York University, con noi questa mattina ai microfoni di America 24. Buongiorno Alberto. Buongiorno, buongiorno Mario. Allora, hai sentito un po' questo quadro generale, non certo un quadro positivo, lo condividi intanto? Sì, lo condivido assolutamente, devo dire, da moltissimi punti di vista. Negli Stati Uniti sembra essere una situazione di stallo, tutti stanno aspettando, non è chiaro se stiano aspettando le elezioni o cos'altro. In parte le elezioni senza dubbio, ma non solo quello, stanno aspettando una ripresa che non arriva, stanno aspettando una soluzione dei problemi europei che non arriva, stanno aspettando lavoro, stanno aspettando che i mercati ricomincino a crescere, insomma, però la situazione sì è di completo stallo e non si vede nulla che si muove. Ecco, secondo te questa crisi americana, la crisi poi globale o comunque anche europea, è partita dall'America, poi è arrivata in Europa, adesso ritorna in America, qualcuno dice che potrebbe espandersi ai mercati emergenti. C'è un momento molto difficile sul piano globale. Ecco, qualcuno parla di un modello di sviluppo che si è chiuso senza che ce ne sia un altro al suo posto. Secondo te è vero oppure siamo semplicemente in una classica crisi congiunturale? No, non è una classica crisi congiunturale, questo credo non ci siano dubbi. La classica crisi congiunturale quasi per definizione dura molto meno ed è più facilmente identificabile, insomma, il momento in cui si cambia direzione, si ricomincia a crescere. Questo chiaramente non è quello. Siamo nel mezzo di crisi finanziarie molto profonde. Queste crisi finanziarie tipicamente sono difficili da superare, ci vuole tempo a superarle e comunque non si capisce mai, diciamo, qual è la direzione migliore per farlo e come succeda. Quindi indiscutibilmente io credo siamo all'interno di questo, siamo all'interno di una grossa crisi finanziaria, c'è debito, c'è stato negli Stati Uniti, c'è troppo debito, in Europa c'è troppo debito, la situazione si deve risolvere da quel punto di vista in una direzione o nell'altra, e questa è la ragione per cui siamo bloccati. Che questa sia una crisi di sviluppo, cioè che sia la crisi del modello di sviluppo, io tendo, come dire, a scontare un pochino queste cose. Queste sono troppo spesso, sono, come dire, argomentazioni ideologiche di chi non credeva allo sviluppo precedente e quindi pensa che si possa cambiare completamente direzione. Insomma, io non credo che questo avverrà in nessun senso, non credo. Abbiamo bisogno di una riforma dei sistemi finanziari seria e abbiamo bisogno di un qualche meccanismo che ci liberi di buona parte di questo debito. Ecco, tu hai parlato di debito, giustamente, è un problema comune, tutti devono tagliare, tutti devono passare attraverso fasi di austerità. Sappiamo che l'America aveva un great bargain che ha provato a fare per tagliare 4 mila miliardi di dollari, 4 trillion come si dice da queste parti, poi hanno fatto un accordo per tagliarne subito 1000, poi altri 1500 forse verranno nel gennaio del 2013. Insomma, c'è una situazione confusa, da una parte si preme per l'austerità, ma dall'altra bisogna incoraggiare la crescita. È lo stesso problema che abbiamo noi in Italia e in Europa: da una parte si aumentano le tasse e si cerca di tagliare il disavanzo pubblico, dall'altra, se non si cresce, dove andremo a finire? Le manovre rischiano di essere inutili. Ecco, tu credi che l'America sia più avanti di noi in questo? Stanno discutendo, per esempio, la concessione di $1000 al mese di credito in busta paga per spese sociali ai lavoratori. Non si sono ancora messi d'accordo e probabilmente ci vorrà un po' di tempo, ma io credo che alla fine lo faranno. È una misura che aiuta la crescita, è giusto? Ce ne sono altre, secondo te, che dovrebbero prenderne, e perché noi non ne prendiamo? Io credo che sia vero che gli Stati Uniti sono un pochino avanti rispetto a noi, soprattutto perché hanno iniziato ad affrontare il problema del debito pubblico prima che generi un'enorme crisi. In questo momento non sembrano mettersi d'accordo, ma questo è probabilmente una questione elettorale. In Europa invece gli spazi per ridurre il debito pubblico ci sono, ma significa intervenire nella spesa in maniera drastica, identificandone la parte inefficiente, altrimenti il taglio di spesa diventa estremamente recessivo e questo ovviamente è un problema. Quindi aumentare solo le tasse non va. In America mi sembra che non lo stiano facendo. In America non lo stanno facendo, in America in realtà potrebbero farlo, nel senso che hanno più spazio, hanno un carico fiscale più basso di quello italiano europeo in generale. Quindi negli Stati Uniti fare solo attraverso le tasse può essere politicamente non desiderabile, ma è certamente possibile. In Europa, nel sud dell'Europa, questo è impossibile perché il carico fiscale è enorme. Secondo te la crisi immobiliare dei mutui si prolungherà? La crisi immobiliare purtroppo si prolungherà fino a che non si vedano vie d'uscita sull'occupazione. Sul piano finanziario, le banche americane sono in condizioni simili a quelle europee o stanno meglio? Mi sembra che abbiano più capitali, ma prestano o non prestano per lo sviluppo? Dunque hanno più capitali, quindi da questo punto stanno meglio, si sono, come giustamente dicevi tu, liberate di una parte del debito pubblico europeo, su questo hanno preso delle perdite, ma comunque stanno molto meglio, non prestano ancora, lo fanno poco, e questo è uno degli effetti di questa incertezza per cui non si sa dove l'economia va e quindi le banche sono ancora in attesa. Quindi stretta creditizia e scarsa liquidità nonostante i tassi di interesse molto bassi. Assolutamente, sì. Ultimo punto, in tutto questo il mercato che fa? Perché tutto sommato la borsa è stata abbastanza resilient, certo sale, scende, però tutto sommato non è precipitata come molti temevano. Cosa consigli all'investitore e che pronostico fai per la borsa americana? Mi sembra abbastanza, come dire, ragionevole immaginare che la borsa negli Stati Uniti è anch'essa in attesa, che non ci aspettiamo enormi perdite. La borsa sta aspettando di vedere quando l'economia riparte. A quel punto mi immagino grossi guadagni rapidi, perché ci sono enormi quantità di capitale in attesa, da quelle nell'oro a quelle in vari bond, in varie forme di liquidità. Quindi nel momento in cui riusciremo a intravedere una ripresa abbastanza solida, io ho l'impressione che ripartirà rapidamente. E i tassi a lunga resteranno dove sono per un po'? Sì, perché la Fed farà di tutto per farli rimanere lì. Allora dobbiamo dedurre che la Fed è più potente della Banca Centrale Europea? La Fed è certamente più potente della Banca Centrale Europea, però l'operazione della Fed qui è più facile, perché la Fed sta essenzialmente immettendo liquidità nel mercato privato. Il mercato privato sappiamo come funziona ed è relativamente, fra virgolette, controllabile dal punto di vista della Fed. La Banca Centrale Europea ha a che fare con i governi, che sono tipicamente inefficienti, che hanno ogni sorta di, come dire, diverse dinamiche decisionali, soprattutto molto più azzardo morale, e quindi è molto più difficile gestire i governi.